Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non ho mai visto in un passeggero che mi fa compagnia lungo il mio viaggio in treno uno sguardo così orientato verso la leggerezza e la libertà. La ragazza che mi sta di fronte e che guarda con lo sguardo perduto il panorama fuori dal finestrino sembra essere da un'altra parte. E siccome per lei le pareti, la corazza che ci chiude dentro lo scompartimento in un treno non esistesse, come se lei fosse già abituata a ben altre sbarre, a ben altri luoghi di reclusione, tanto che gli sembra impossibile che possa essere limitato il suo sguardo semplicemente dal vetro e dal metallo dello scompartimento di un treno. Devo sapere perché. Tu hai avuto una, diciamo, una fanciullezza un po' diversa dalla norma, atipica, sbaglio? No, non sbagli. È stata una fanciullezza atipica perché l'ho vissuta in gran parte all'interno dell'ex manicomio di Trieste, centro della rivoluzione basagliana. E l'ho fatto perché mia madre è stata una psicologa che ha deciso di unirsi negli anni 70 a questo esperimento, a questa rivoluzione. E di conseguenza anch'io ho vissuto i frutti che ha portato questo pensiero. Beh, in senso inverso, cioè un ricoverato in un terribile lager manicomiale veniva liberato, una bambina che stava nel mondo libero viene messa nell'ex manicomio, in sintesi. Sì, è un percorso di contrario in effetti, perché magari questo mondo lo si incontra dopo aver vissuto certe esperienze. Invece io l'ho vissuto all'incontrario, nel senso che non ho dovuto subire nessun trauma alla fine, quindi l'ho vissuto anche in un certo senso nella maniera più... Ma sei nata proprio fisicamente nel manicomio o no, ti ci ha portato tua madre dopo? No, mi ci ha portato mia madre dopo, sì. Sì, però diciamo Basaglia ha fatto una grande rivoluzione culturale, ma a tutti gli effetti quelle in cui stavi te erano le mura di un manicomio, dove per secoli c'erano stato l'idea che fosse un manicomio dove si ricoveravano i matti. Sì, però era un luogo aperto, cioè non era un luogo... No, io l'ho vissuto, io stavo a Perugia c'era un allievo di Basaglia, quindi da un giorno all'altro esplose questa cosa e quello che chiamavamo il manicomio aprì i cancelli, uscivano tutti ricoverati. Fu una situazione strana, paradossale, anche divertente da un certo punto di vista, però immagino il percorso diverso. Noi ragazzi di Perugia, ragazzini, vedevamo uscire di queste persone che non vedevamo mai, che sapevamo che c'erano i matti chiusi, passavano davanti ai cancelli, le mamme ci c'erano, sei cattivo vai qui dentro, ecco. Improvvisamente aveva visto uscire questi signori anche spaesati, all'inizio non è che c'erano nemmeno dei supporti sul territorio per loro. Ma tu il diverto, eri una bambina che stava fuori e entri dentro il cancello. Voglio capire meglio questa impressione tua rispetto agli altri che lasciavi fuori. Sì, l'impressione mia è sempre stata quella. Avevo molta curiosità, nel senso che comunque vedevo queste persone con cui comunque c'era un rapporto paritario per me. Quanti anni avevi te? Ma io andavo alle elementari, ma oh, bambina piccola, piccola. Sì, sono sempre stata lì. Per me erano persone comuni con le quali vedevo anche gli operatori, mia madre interagire non dico in modo paritario, perché magari c'era. Ma voi dormivate, vivevate dentro il manicomio o entravate la mattina come un lavoro e usciva la sera? No, mia madre entrava la mattina e usciva la sera, sì. E ti portava dietro con lei? E mi portava dietro con lei, sì, perché lavorava 12 ore al giorno e quindi sì, passavo i pomeriggi lì. E le tue amichette di scuola cosa facevano? Mentre tu stavi lì con tua madre, facevano opera meritoria, ma stavi con una psicologa che lavorava con pazienti psichiatrici, e tu cosa facevi nel frattempo? Nel frattempo io giocavo nel giardino, stavo con loro, guardavo, osservavo. Sì, c'era un'inclusione all'inverso, invece che includere una persona con delle neurodiversità nel mondo delle persone tipiche, una bambina neurotipica veniva inclusa nel mondo di quelli con problematiche psichiatriche. Sì, però era anche un momento, almeno quello in cui, insomma, ho memoria io, perché poi quando ero più piccola non me lo ricordo, in cui c'era anche il progetto dell'Accademia della Follia, per cui mi ricordo le prove teatrali e tutte queste cose qui, artistiche in un certo senso, una rielaborazione a cui potevo partecipare anch'io, che guardavo anch'io, a cui anche ho partecipato sul palco con piccole cose. Sì, ma riuscivo ad avere anche una vita con persone ogni tanto tipiche, sì, neurotipiche, nel senso, sì. Quando andavi a giocare con i tuoi compagnetti, non credo che di cosa parlavate? Loro magari vedevano la televisione, giocavano fuori, facevano altre cose e tu giocavi coi matti praticamente. Sì, esattamente. Io giocavo con i matti, però giocavo anche con in effetti con le mie coetanee, quindi sì, in un certo senso hai ragione anche tu, mi fai pensare che era un po' una situazione schizofrenica, diciamo, per cui dovevo cambiare anche. No, te lo dico perché conosco bene il problema, ho un figlio autistico che seguo, che conosco bene il problema della neurodiversità, quindi mi fa sorridere e mi sembra un esperimento divertente, poi adesso non so esattamente quando è passato sulla tua pelle, come l'hai vissuto, ma è una storia strana, è una bambina messa in mezzo ai matti, che viveva questo clima strampalato, divertente, pioneristico, pieno di entusiasmo, di dire prendiamo le persone che sono rinchiuse, liberiamole e diamo loro una possibilità di vita inclusiva, ma per te l'inclusione era tra di loro. Esatto, sì, è corretto, sì. In effetti ho avuto anche un po' di difficoltà dopo nella comunicazione, diciamo, con quella socialmente accettata, perché il diverso, il matto, il cervello ribella ha un sistema comunicativo molto diverso, non lo è so bene. Come lo so stai, cosa hai mangiato, non gliene frega niente. Come hai fatto a riacquisire i codici della relazione tra esseri umani tipici, diciamo neurotipici, dopo che eri abituata a interpretare e a parlare lì? È come andare in un paese lontano, forse un po' selvaggio rispetto al mondo comune, apprendere il linguaggio dell'antropologo, capito? Tu eri un'antropologa nell'isola dei matti, quando ritornavi poi nel mondo dei cosiddetti savi, come facevi a riguadagnare gli spazi tuoi o relazionarti con le persone? Ma in effetti ho fatto un po' di difficoltà, devo dire, ho dovuto impararlo e ho dovuto anche un po' recitare, nel senso cominciare a capire come rapportarmi o capire che magari per alcune persone è importante avere un livello comunicativo, chiederti cosa hai fatto ieri, cosa non hai fatto ieri. Non hai detto niente, è il lubrificante della socializzazione, fare finta di occuparsi degli altri, essere un po' attenti ai bisogni degli altri, che normalmente sono azioni, mi rendo conto, superflue rispetto all'essenziale. Una persona, se mi dici come stai, ci rimane male, anche se te non te ne importa niente, deve essere automatico. E mi rendo conto, anche io perché ho molte difficoltà a usare questi codici, che alla fine è stato abbastanza per te problematico, difficile, perlomeno una scoperta, rifrequentare persone che parlano delle cose futili, come stai, ma dimmi che bel vestito, ma che bello, facciamo una passeggiata, quanto è bello ascoltarti, sei una persona meravigliosa, tutte queste baggianate che si dicono agli altri per farli contenti, però sono fondamentali. Sì, sono fondamentali. In effetti mi ricordo che tornai a casa una sera, guardai i miei genitori e gli dissi: voi mi avete insegnato a vivere in un mondo che non esiste. Cioè esiste dentro gli ex manicomi, chiaro. Sì, in un mondo che non esiste, non è così là fuori, perché ci rimasero malissimo, mi ricordo. Mio padre soprattutto. Ma anche tuo padre era un medico, anche tuo padre era un... No, mio padre era, diciamo, l'elettroversante, non era un medico. Un matto. Ma sì, ha avuto una vita difficile. Quindi era un paziente di tua madre, tuo padre? Ma non la metterei proprio così, però... Però sì. Vicino? Sì. Beh, guarda che tua madre è una donna singolare. Si è portata al lavoro a casa in tutti gli effetti. Cioè, sì. Si è sposata un suo paziente e la figlia se la portava al lavoro così, come cavia. Come... sì, era quello il senso alla fine della cosa. Cioè... Face parte dell'esperimento, diciamo, dell'esperimento sociale, della reintegrazione nel mondo civile di persone che erano state rinchiuse. Sì. Gods and the saints preserve you, 'cause nobody here deserves you. I'm living my life in flashback, since I lost my card for cash back. And I've gone to rack and ruin, since I don't know what you're doing. There's no clear or present danger that I see in any stranger. Someone, somewhere said to me, will someone, somewhere set me free. Won't hurry up or hurry me. Will someone somewhere marry me? To you. To you. To i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La mia radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La mia radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. fino a che età ci sei stata in questo clima? Quando è che ti sei affrancata poi? No, verso l'adolescenza ho cominciato a volare verso altre situazioni, devo dire non molto più edificanti, alla fine anche abbastanza noiose dal mio punto di vista. Cioè? Ti ha mandato dalle suore a studiare? No. Bisogna avere la maglietta, quella giusta, se no non va bene. Benvenuta nel mondo delle persone normali, è chiaro. È chiaro, tu eri una piccola selvaggia da questo punto di vista. Eri totalmente priva di strumenti di galleggiamento sociale, perché grazie, chi se ne importa? Ma giustamente, è come se tu avessi vissuto in una comune hippie, capito? Che devi tornare improvvisamente a Wall Street e ti dicono senza bombetta in testa non puoi entrare, è la stessa cosa. Vai a una festa o esci con delle amiche se non sei vestita nel modo giusto. Esatto, infatti sono stata considerata sfigata per un po' di tempo, poi ho capito come funzionava, ho detto vabbè, giochiamo. E ti sei cominciata a travestire? E mi sono cominciata a travestire, esatto. Perché com'era la differenza? Finché vivevi nell'isola felice dei matti, non ti importava niente l'aspetto esteriore? Una piccola selvaggia? No, io ero abituata comunque a vedere insomma personaggi abbastanza singolari anche fisicamente, quindi non avevo un canone estetico, diciamo, non so come dire. Non individuavi più la meraviglia dello standard, perché esattamente, sì, esattamente. Non capisco. No, ma guarda, sei un caso molto interessante. È una sorta di Emilio messo nella città dei folli. È una storia interessante la tua, veramente. Come hai cominciato? Raccontami un po'. Avrai avuto delle prime situazioni d'amore, degli innamoramenti, delle cose sentimentali? Come le gestivi? Perché quello è il terreno più difficile. Lì veramente si vede la vera palestra di infamità e di capacità di mentire. Se no come fai? Sì, no, ma sono state disastrose. Sono state disastrose fino ai 25 anni. E tu dicevi esattamente quello che pensavi. Guarda, caro, ti puzza il fiato, con te non c'esco. Cose del genere. Ma sì, ero molto, infatti, aggressiva in un certo senso. Andavo, dicevo, mi piaci, vieni. Cioè, non è che avevo grandi metodi di corteggiamento. Ma rompevi tutte le liturgie, bisogna sempre far finta che la donna solo per caso cade dalle nuvole. Ma Dio mio, cosa farò mai? Ma cosa vuoi? Ma io no. E tu invece ti piaceva uno e dici, guarda, mi piaci, fine. Sì, esattamente. E come dovrebbe essere in realtà nella vita normale? E quindi eri considerata una poco di buono o una sfigata? Due sono le cose. Esattamente. Grande. Infatti anche questo, sì, anche questo. E quindi hai cominciato a imparare la sottile arte della menzogna per vivere insieme alla gente? Sì. Mi è costato un po' di fatica, me ne rendo conto. Di solito, sai, il percorso è contrario. A un certo punto della propria vita una persona dice, ma perché devo far finta che il mondo mi piace, che le persone sono simpatiche? E comincia a comportarsi da selvaggio, come tu invece facevi da bambina. Tu hai fatto un percorso molto più complicato, hai riacquisito le buone maniere, come il selvaggio preso dalla giungla, che devono riabituarti e diventare un damerino, come i film, capito? È la stessa cosa, capito? Come il libro della giungla, come Tarzan, ecco, eri Tarzan riportato al mondo civile praticamente. Sì. E tua mamma in tutto questo momento di riaffrancamento della normalità, come era d'accordo oppure ti vedeva come un tradimento? No, era d'accordo, sì. Ma mia madre, io quando ero piccola la definivo spensierata, per me mia madre era spensierata, infatti quando la mia famiglia mi chiedeva come stava, io le davo questa risposta. Per cui... Spensierata vuol dire che non si poneva problemi, non aveva pensieri? Ma sì. Sì, non so, non aveva i pensieri che vedevo che le altre madri avevano quando io entravo in casa, passavo il pomeriggio con l'amichetta delle elementari, la madre era sudata, affaticata dalla spesa, bisognava fare... Mia madre non aveva questi pensieri, cioè aveva una servitù, altri obiettivi. E dentro era una servitù molto ben fornita, perché sennò... No. Cioè, a casa dovevate mangiare a una certa ora, che mangiavate? Mio padre si occupava di tutto. Mio padre, sì. Ah, quindi lo aveva anche un po' lobotomizzato, oltre. No. Tuo padre era un perfetto. Ma però guarda, dal suo punto di vista lei è una scienziata che studiava, diciamo, il problema dell'inserimento di persone con problemi psichiatrici nella società civile, e quello era il suo terreno di lavoro, è come se andasse in laboratorio e analizzasse le cavie. La sua vita familiare e sentimentale era risolta così, aveva trovato un uomo che accettava di stare alla corte della dottoressa, e una figlia che, non lo so, è stata un po' dentro, non saprei definire il rapporto con la figlia, perché anch'io mi porto dietro volentieri i figli, però tu mi fai riflettere sul fatto di quanto loro poi siano contenti di fare quello che fa il padre. Mi stai mettendo delle grosse pulci nell'orecchio, devo dire. Tu quanto sei mai diventata autonoma? Te sei diventata autonoma nella vita a un certo punto? O stai ancora con i genitori? No, io sono andata via di casa a 18 anni. Il primo momento utile è mollato. Sì, no, ma comunque un grande rapporto con mia madre, non è... E lei continua a studiare i matti, queste cose qua, sempre? Adesso è bellamente in pensione, quindi gira per l'Europa in vacanze infinite. Però vedi, non è così spensierata, si è organizzata bene la sua vita. Ah, sì. Tuo padre? Mio padre è morto quando avevo 23 anni. Aveva lasciato un vuoto importante nell'organizzazione, non voglio parlare di sentimenti, sono cose personali, nell'organizzazione della routine, visto che mancava la persona chiave che svolgeva le funzioni pratiche alla fine, quello che cucinava, puliva. Sì, per mia madre è stato abbastanza difficile, in effetti, è stata una perdita non indifferente. E come si è adattata poi lei? Piano piano ho ritrovato i suoi spazi, le sue cose, però ha imparato, sì, molta difficoltà. Ha imparato a friggersi un uovo, a buttare giù la pasta. Sì, poi ha incontrato, insomma, il suo nuovo marito. E... Sempre preso, diciamo, dallo stesso contenitore oppure? No, questa volta no. Non c'è l'ha incontrato a carnevale, quindi in una situazione in cui lui era anche mascherato, tutta una cosa strana. Sì. No, gli piace sempre, diciamo, guardare oltre l'aspetto esteriore a tua madre, perché mettersi con uno che lo vedi mascherato esattamente non mettersi con uno di cui non capisce esattamente che c'ha nella testa. Sì. Può essere anche questa. Ma lui si è mai tolto la maschera tutta la vita? È stata con Arlecchino, Pulcinella, seduto vicino? No, si è tolto la maschera. E che c'era sotto? Scusa. Sotto cosa c'era? Sotto c'era un uomo pragmatico che vuole vivere anche lui, insomma, una vita tranquilla in giro per il mondo. Hanno cominciato a viaggiare, hanno trovato questa, sì, esatto, questa passione comune per il viaggio. Sì. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and or a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's all with me. braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches, I want to celebrate. I can appear inside and over. Signori viaggiatori, che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. A te che ti è rimasto però di tutta questa fanciullezza? Cosa ti mancava? Qual è la cosa che più ti mancava quando stavi dentro con i matti a giocare con loro? Faceva rimpiattino con gente magari di 60 anni, ma le tue amiche facevano, non so, guardavano la televisione, i cartoni animati, giocavano con le bambole, non so esattamente cosa facessero nella tua generazione, ma non quello che facevi te. No, ma io facevo un po' tutti e due, però ero più attratta da questo aspetto. Allora ti faccio una domanda. Dimmi un giocattolo della tua fanciullezza che ti ricordi. Il peluche con cui andavo a dormire. Vabbè, quello ce l'avevi almeno, sì. Sì, quello sì. Sì. Ma non c'avevi lo scatolone dei giochi come tutti i bambini? Se stavi al manicomio te lo portavi dietro, come facevi? Vabbè, ma ce l'avevo, sì, ce l'avevo, dai. Eh sì, giocavi con, però... con le camicie di forza, vestivi le bambole. Sì, anche i costumi di scena, le gabbie contenitive. Ah, c'erano sì. Tutte queste cose? Diciamo, il tuo sì, gioco certo. Era... Ah, io dicevo per scherzo, veramente, tu giocavi con gli accessori di contenzione che facevano? C'erano, sì, perché venivano usati negli spettacoli, quindi li hanno recuperati dai magazzini. Certo, beh, fa ridere, cioè, fai recitare i matti e li fai travestire con le camicie di forza, cioè, almeno falli vestire, che ne so, da ballerine classiche, da pirata, li fai vestire con le camicie di forza? C'è stato anche quello dopo, però all'inizio si vestivano da matti e da dottori, cioè quelli che erano i normaloidi facevano anche i matti. Ah, li chiamavano i normaloidi, si chiamavano? No, io li chiamo. È bello. E gli altri come li chiamavi? I non normaloidi? I matti e i normaloidi. Allora, tua madre si metteva la camicia di forza e si faceva le gare. Sì, lei faceva la matta. E il matto giocava dottore con lei legata. Questo è. Sì, vabbè, detto così è terribile, però sì, diciamo che era comunque una rappresentazione. Volevano far vedere al pubblico, dare degli schiaffi. E il pubblico chi era? Altri matti, altri normaloidi? No, no, hanno fatto anche Rossetti. Ah, veniva gente a vedere le... Sì, esatto, le impellicciate, le signore impellicciate, truccate per l'occasione. Perché si attizzavano un po'. Tu sai, il matto c'ha sempre questa vena ferina, belluina, irrazionale e macroscopica, che le signore attizza molto, figurati. Per cui si sedevano aspettandosi non so cosa, e poi vedevano quello che vedevano e sentivo, le sentivo vicino a me sussultare. E che dicevano? Tanto, davvero. Sussultavano. Mamma mia, ma sei matto, intestino, sei matto. E beh, ma me, signora, matto sì, si era. Per cui sì, c'era anche... Beh, Trieste è una città che si presta proprio a tutto quello che mi sta... È un racconto molto triestino il tuo, è proprio sì. Da confine, il vento porta sempre la follia. Sì. Beh, Claudio Misculin diceva Trieste è Hollywood per i matti. Cioè... Ah, figurati, certo, perfetto. Sì. Adesso che fai? Adesso ho trovato... Sono a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e ho trovato un lavoro. Lavoricchio come bibliotecaria. E che vorresti fare poi da grande? Non lo so. Non lo so, ci sto ancora pensando. Non lo so. Quanti anni hai esattamente? Ne ho 35, non è che sono proprio di primo pelo. Vabbè, non dimostri meno. Beh, 35 anni, cominciamo a vedere le cose positive. Tua madre è in giro per il mondo, quindi ti lascia libero il tuo spazio emotivo senza dover per forza. No, sbaglio. Questo è... No, è vero. Sì, questo è vero. Se riesci a avere un minimo di sussistenza, cioè che riesci almeno a mangiucchiare, c'hai il mondo davanti in questo momento. Hai visto sia il lato scuro della forza che quello luminoso, e sta a te decidere quale sia dei due, quello luminoso e quello scuro. E puoi investigare in qualunque luogo tenebroso dell'animo umano, pertanto è conosciuto quanto c'era di più lontano dalla normalità. Hai imparato a darti da fare, galleggiare e a prendere in giro anche i normaloidi. Quindi in 35 anni, secondo me, hai messo insieme un bel bagaglio di arte marziale di sopravvivenza, secondo me, no? Questo sì, devo dire, questo sì. Ma ti senti sola? No. No, però non ho molte amicizie. Ma chi è che ha molte amicizie, scusa, dimmi. È un po' difficile, sì. Ma difficile perché? Difficile per il luogo o difficile per te? No, difficile per me perché... Cioè adesso io non voglio, magari dico una cosa un po' snob. E dilla, che figura. Però mi annoia a parlare di sciocchezze, cioè, una persona deve anche avere una cara, quando uno lambisce la follia, la normalità è la cosa più infausta che possa esistere. Un cervello neurotipico, ma è una cosa che tu già, come lo vedi, già sai cosa c'è dall'altra parte. Mi ci credo, e lo so, dovresti ubriacarti e far finta che sono interessanti le cose che ti dicono. Sai cosa farò in vacanza? Cosa facciamo stasera? Andiamo al ristorante? Sì. Dove andiamo? In quel posto si mangia bene, sì. Ma che bello questo vestito carino, in amore, e questo la gente fa, che dice? Esatto, mi annoia parecchio, piuttosto resto sola, non mi interessano, non ce la faccio. E i palpiti insaziabili dell'amore riesci a trovarli oppure no? Sì. Vabbè, quello sì, perché lì, vedi, lo sai perché? Quella è l'area della follia. Anche una persona normale, se si innamora, c'è un momento di fortunata follia. Se tu ti bevi e ti lambisci quel momento di follia, puoi frequentare chiunque. Ma quando finisce con la follia devi proprio staccarti di dosso, entriamo in una fase limacciosa. Quindi cambi continuamente, penso. No, non cambio continuamente. Adesso sono fissa, diciamo. Ah, vabbè. Ma ti annoierai alla fine. O se hai trovato una persona matta come te, quindi alla fine andate bene. Esattamente. Vabbè, sì. Allora ritorni esattamente in quella, il tuo imprinting originale, capito? Sì. Vi pascete delle reciproche follie, e non avete bisogno di mentire, vi dite tutto. No, e esatto. Quindi va bene, sono contento. Va. È una storia a lieto fine, devo dire. Cominciava sì. Un po' strana, ma finisce bene alla fine. La bambina cresciuta insieme ai matti, dopo un travagliato momento per riuscire a convivere con i normali, trova un'altra persona matta come lei e insieme fanno il loro piccolo manicomio felice. Sì, mi piace come conclusione. Allora ti saluto, ciao, buon viaggio. Ciao, grazie, ciao. Cry, baby, cry. make your mother sigh. She's old enough to know better. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The Duchess of Kirkcaldy, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Bird and Bee. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. At 12 o'clock, a meeting round the table for a seance in the dark. With voices out of nowhere put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Cry, cry, cry, baby, make your mother sigh. She's old enough to know better. Cry, baby, cry. Cry, cry, cry, baby, make your mother sigh. She's old enough to know better. And you take me back where I came from. Can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Io ormai riesco a cogliere il turbamento sul volto di una donna quando è seduta nel vagone di un treno. Soprattutto lo colgo quando questa donna la conosco, la riconosco, l'ho vista. È lei che mi raccontò una volta una storia miserevole di un uomo che di lei si approfittò fino alla radice profonda del proprio sentimento per poi lasciarla, abbandonarla, illuderla. Beh, questa volta vedo lo stesso segno nel suo volto disfatto di un amore che fin troppo ha esaurito la sua possibilità di darsi, di essere generosa, e quindi non posso che farmi i fatti suoi fino in fondo. Sono un po' scossa da questa esperienza che ho appena trascorso. Ti si legge in faccia, come mai, che è successo? Sono stata a casa di un mio amico e ho conosciuto un uomo apparentemente affascinante, interessante, affidabile, che poi mi ha proposto di fare una vacanza nei paesi dell'est. Cioè tu vai a cena da un tuo amico, c'era un altro personaggio. Quanti eravate a quella cena? Ma eravamo in quattro, sembra, sì, c'era anche una. Quindi ragazza. Lui stava con un'altra donna e tu stai col tuo amico? Esatto, sì, lui con un'amica, io con questo mio amico, molto particolare, anche questo amico era appena rientrato dall'Africa, fa il fotografo in Africa, insomma la situazione. E tu sei stata agganciata dall'amico del tuo amico e stava con una donna? Sì, un'amica. Vabbè, eravate una cenetta aperta, non era la cena a quattro. Esatto, sì, più che cenetta, esatto, era una cena aperta. E quindi niente, mi propone di fare questa vacanza. E mi pare una bella cosa, mi sembra insomma un viaggio divertente, dovevo stare fuori un mese in macchina e girare tutte le varie capitali. Ma tu accetti di andare un mese fuori con una persona che hai appena conosciuto a cena? In realtà questo non è avvenuto la sera della cena, nel senso che lì l'ho conosciuto, poi dopo ci siamo sentiti. Ah, l'hai frequentato? L'ho frequentato poco, molto poco, perché comunque lui non abitava proprio vicinissimo. E niente, insomma, alla fine mi convince a fare questo viaggio, io avevo voglia comunque di cambiare, di fare qualcosa di un po', insomma, di un po' stravagante, se vogliamo, fare proprio un viaggio on the road, no? Quando partiamo, decidiamo di partire, intanto lui decide di prendere la mia macchina. Premesso che questa persona aveva diverse macchine, cioè addirittura era un appassionato di auto, però si parte con la mia macchina e vabbè. Cioè lui aveva tante macchine, però ha preso la tua. Ha deciso di partire con la mia. Ma questo è già strano, scusa. Infatti era strano, però io ho accettato anche pensando di sentirmi anche un po' più sicura. Beh, ti offre un viaggio e dici poi metti la macchina tu, boh, sembra molto strana come cosa. Comunque va bene, dai, andiamo avanti. Poi partiamo e prima tappa Ungheria, a Budapest, e lì insomma viene fuori la vera natura di questa persona, che comincia a bere dalla mattina fino alla sera. Quindi lui non poteva guidare perché sapeva che era alcolista, per questo ti ha fatto prendere la tua macchina, pensando a te. Sì. Poi vabbè, insomma, già a Budapest comincia a bere, si ubriaca, così a un certo punto io ho avuto la sensazione che forse non avevo fatto proprio la scelta giusta e mi sono confidata dicendo che mi mancava l'amico che ci aveva presentato, che invece era partito per il Kenya, quindi aveva fatto un altro tipo di vacanza alla quale io avevo rinunciato per fare quest'altra vacanza che mi sembrava più divertente. E lì lui si è probabilmente ingelosito e ha deciso giorno dopo. Ma ingelosito, allora c'era una storia fra voi? Ma sono quelle cose. No, non c'era proprio una storia, c'è stato poi un bacio, ma. Un bacio, ma cioè uno esce per un mese con una persona, sei adulta, per un bacio. No, ancora un mese non c'era. Vabbè, ma più o meno. Vabbè, avete visti 4-5 volte, siete partiti assieme. Cioè, io non avevo proprio l'intenzione di avere una relazione con questa persona, avevo proprio voglia di fare una vacanza con una persona che ti dava sfiducia e stavi tranquilla. Sì, cioè comunque era molto simpatico, divertente, quindi dopo sì. Da cosa nasce poi, cosa, hai pensato? Esatto, se fosse nato qualcosa tra di noi sarebbe stato, cioè, insomma, avrei valutato graduale, poi, giustamente. E decidiamo di uscire, prendiamo un taxi e andiamo in un night, perché insomma parlando io ero curiosa di vedere come erano queste donne dell'est di cui tutti gli uomini italiani sembra che siano. Vabbè, una roba da fantozzi andare a Budapest al night. Comunque vabbè, sei andata al night. Siamo andati in questo night che insomma ci siamo seduti sulla poltroncina e queste donne andavano, gli si avvicinavano e ovviamente cercavano di farlo bere il più possibile. Lui invece diceva no, ma sono qui con lei, ma comunque la situazione è tranquilla. Non è che era, cioè non è che insomma c'era chissà cosa, mi aspettavo qualcosa di molto peggio, invece anzi mi sono messa a chiacchierare con una di queste di argomenti che non c'entravano niente col sesso, eccetera, come se fosse un'amica che incontro al bar. Intanto poi ti faceva bere lo champagne finto? No, lui non beveva perché cioè lì non ha bevuto, insomma non era proprio, era abbastanza scafata come persona. Se non che gli hanno chiesto un conto altissimo, nonostante lui non abbia bevuto, non abbia preso niente, perché gli offrivano di tutto, se non ha preso una bevuta così, e allora è fuggito da questo night. Ah, è scappato senza pagare, lasciandoti lì. Sì, mi ha detto, esatto, e questi ci sono venuti dietro, ci hanno rincorso. E poi abbiamo preso il taxi e questo tassista ci ha portato in un posto, cioè ci ha fatto fare tutto il giro della città apposta per farci spendere di più. Ma è proprio i polli per eccellenza. Sì, no, ma poi sì, esatto. E quindi lui si è, lui c'era, cioè, poi io poi mi affidavo tutto a lui, quindi lui non può. Beh, siete nella notte, no, di Budapest con un taxi, dipende, che è fuggito nella notte. E che succede? No, siamo rifugiti anche da questo tassista, cioè nel senso, questo qui ci ha fatto, ci voleva far pagare di più, noi abbiamo provato a dire, guarda, che la strada questa l'hai fatta due volte perché la conoscevamo per arrivare in albergo. Quindi lui cosa ha fatto? Insomma, si ha detto, vabbè, andiamo via e non lo lasciamo qua e non paghiamo. Scendiamo dal taxi, se non che a un certo punto siamo passati per una via secondaria, ci siamo trovati con una macchina della polizia e tipo 7-8 taxi tutti in fila, e sono tutti scesi e hanno detto, insomma, o paghi o... T'hanno minacciato. L'hanno minacciato, mi hanno detto che doveva pagare o l'avrebbero portato in galera, che ne so, gli avrebbero fatto una multa, insomma, lui alla fine ha tirato, perché non è che poi lui non li aveva i soldi, cioè non è che c'aveva problemi di pagare ovviamente un taxi, era proprio così, tutto, insomma, fatto un po' così. Finalmente andiamo via da Budapest e ci dirigiamo verso la Transilvania, dove lì ci aspettava una ragazza che aveva una casa e che era la sua golf, ex golf di quando era in Italia. Questo è quello che lui aveva detto a me, mentre a lei aveva detto che io ero la sua autista. E ovviamente noi due non sapevamo di questa cosa, cioè entrambe pensavamo di essere due amiche. Lei forse aveva delle aspettative in più rispetto a me, così. E quindi lì inizia questo soggiorno bellissimo in questo posto in campagna con i maiali e altro, al che io faccio due conti e dico, ma forse sta vacanza proprio non è proprio come me l'aspettavo. E gliel'ho detto, insomma, no? E quindi lui, sempre sotto gli effetti dell'alcol, ha cominciato a minacciarmi e ha anche tirato fuori un coltello. Beh, è una sorpresa continua questo uomo. Tu ridi, ma hai rischiato tantissimo. Ho capito, ormai, cioè, sono qui che lo racconto. Qui ha tirato fuori il coltello ubriaco. Ha tirato fuori il coltello ubriaco e mi ha detto, se ti azzardi a ribellarti o, insomma, a lamentarti, devi... ancora di questa bellissima, esatto, vacanza. Perché tu, insomma, devi imparare a vivere. A vivere tra i maiali, così. No, vabbè, voleva far darmi lezioni di vita, del tipo che lui è, che io ero una persona troppo ingenua, troppo buona, questa era la sua filosofia, e quindi lui mi avrebbe insegnato come invece ci si doveva comportare, no? Col coltello in mano, naturalmente. Col coltello in mano. E quindi cosa hai fatto a quel punto? A quel punto lì mi sono un attimino un po' spaventata e ho detto, beh, a questo punto... e poi mi ha nascosto il portafoglio, no? Vabbè, sequestro di persona a questo punto. Esatto, infatti. Allora, io poi col computer ho comunicato con delle mie amiche, ho raccontato questa cosa e avevo paura comunque ad andare anche a dirlo alla polizia, perché comunque mi trovavo in Transilvania. Terra di vampiri, poi. No, ma a parte i vampiri, che mi sa che alla fine erano quelli più innocui, che, insomma, magari la polizia lì può essere corrotta, oppure, cioè, era più, che ne so, se qui vai dalla polizia non è che ti difendono, e trovarmi in un posto dove non conoscevo nessuno, a casa di questa persona, e magari non mi davano retta, oppure mi dicevano di aspettare che arrivava la polizia, e nel frattempo chissà cosa mi poteva succedere, no? E quindi? E quindi ho preferito, insomma, intanto ho mandato questi messaggi a queste mie amiche, che anche loro in Italia hanno provato ad andare dai carabinieri, però i carabinieri gli hanno detto che se non facevo la denuncia loro non potevano fare niente. A tutti gli effetti eri nello stato di una sequestrata, non avevi più i soldi, comunicavi col cellulare di nascosto, questo ti minacciava col coltello. No, vabbè, però è stato, cioè, mi ha chiesto come ho fatto a venirne fuori, è stato grazie a lui, perché comunque dopo questo lo ha chiamato per due giorni, insomma, lo chiamava per due giorni, dice, adesso te la porti via perché se succede qualcosa, cioè, comunque sia, sì, è anche una, tutti sanno che è una mia amica che te l'ho presentata io, e non voleva comunque finire anche lui in mezzo a questa cosa, no? E quindi lo ha convinto, insomma, a farlo ragionare, e decide finalmente di portarmi via, se non che questa ragazza rumena che aspettava ed era, diciamo, forse lei, non so, sperava che questo la sposasse, non lo so, certo. E era molto arrabbiata con me e voleva che io andassi via da sola. Ovviamente io da sola dalla Transilvania, non sarei mai riuscita a rientrare in Italia. e sono rimasta chiusa in una stanza con lui che mi portava da mangiare e lei che cercava di convincere lei, e non so di cosa si dicevano, perché sinceramente non... Vabbè, ma è una cosa terribile, sei stata rapita praticamente. Poi quindi t'ha rilasciato, t'ha ridato portafogli, no, dopo alla fine, no, i portafogli, sì, dopo io nel frattempo mi ero nascosto un po' di soldi, mi ricordo me li sono cuciti nel reggiseno, ero riuscita dei soldi, vabbè, comunque tutto un sequestro vero e proprio. Finalmente dopo questa giornata chiusa in casa, lui arriva e mi dice possiamo ripartire, ho dovuto pagare, ho dovuto dare dei soldi, vabbè, comunque alla fine ripartiamo. Però la cosa strana, cioè strana, è che quando sono arrivata in Italia dopo questo viaggio fatto con lui interminabile, siamo andati a casa in montagna, io sono rimasta con lui un'altra settimana. Vabbè, ma sei masochista, scusa, ma sei pazza. No, non riuscivo a immaginare, sono stata lì 3 settimane, non riuscivo ad andare a pensare di tornare nella mia vita quotidiana, ero talmente scioccata. Vabbè, è passato col tuo aguzzino un'altra settimana. Sì, cioè una specie di... sì, sono rimasta lì un'altra settimana, adesso una settimana mare intera, no, sono stati 3-4 giorni. E poi quando ci siamo separati, cioè, ho sentito anche il dispiacere, il distacco. Beh, sindrome di Stoccolma, lo sai, una malattia, una sindrome. Lo so. Che prende le sequestrati nei confronti dello settore. Tu avevi la sindrome di Stoccolma, e eri praticamente innamorata del tuo aguzzino. Innamorata? Beh, no, ne eri dipendente. Sì, però ma infatti dopo mi ricordo che mi ero informato, avevo detto sto cosa. Vabbè, evidentemente vi legava qualcosa di più di quello che sembrava in superficie. Comunque te ne sei liberata. Non l'ho mai scoperto questa cosa in più che mi legava a qualcosa. Ma ci starei più attento adesso quando vai in vacanza con uno sconosciuto. Beh, questa è stata l'unica cosa un po' così strong che ho fatto. Non ho mai più, non sono più andata in vacanza con qualcuno conosciuto. Beh, da sola. Ne l'ho fatto mai prima. I see my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. I throw my hands to you. It's so cold, so dangerous that I can't stay. I ran away from you into your dream and the one that I was in when you Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.